già accettato i problemi e, come dire, bisogna rendervi lode che state cercando di creare una rete, perché poi il problema sostanzialmente è sempre questo: cosa faccio io da solo contro un mostro del genere, no? Si sente? Cosa posso fare io da solo contro un mostro del genere? Allora, intanto c'è una rete che si sta costituendo, perché questo è, come dire, è una lotta che va portata avanti su diversi fronti, quello nei confronti delle amministrazioni, dove, come dire, possono devono intervenire urbanisti, sociologi, no? Persone che, economisti, persone che riescano realmente a identificare i problemi che questa turistificazione, io scusate, preferisco la parola in inglese, l'overtourism, perché mi ricorda l'overdose e, come dire, mi sta molto più centrata sul pezzo. Perdonate, gli anglosassoni riescono nella lingua purtroppo in una maniera migliore rispetto alla nostra, che cerchiamo sempre di dover, no, di razionalizzare tutto quello che il pensiero che vogliamo fare, quasi una forma quasi di sudditanza del pensiero tedesco dell'Ottocento, dove c'è la parola concetto, che però in sé non significa nulla, mentre invece altre parole sono molto più educative del rischio che si sta correndo, un rischio che, come dire, oggi arriva in un livello massimo estremo di visibilità, ma è un qualcosa che parte già dal secolo scorso. Ci sono state delle forme di lotta, ma non, anche qui in Italia comunque questo problema l'hanno iniziato già a vedere. Si è sempre parlato di, come dire, di colpo di ritorno della globalizzazione, di quanto comunque il sistema globale poi andasse a colpire nel piccolo, non creare un grande mercato dove tutti volevano partecipare, ma semplicemente un grande dittatore che dominava le politiche di qualsiasi posto nel mondo dove riusciva ad attecchire. L'overtourism, la turistificazione, credo, ma secondo me, come dire, veramente è la fotografia ultima di questo percorso, e cioè laddove sono state razziate le risorse e delle economie locali, ma parlo anche di agricoltura, immaginate tutta la questione che viene fuori con le sementi della Monsanto, per cui, come dire, quella è la distruzione del parco dell'economia dell'agricoltura mondiale, dove appunto poi c'è uno che decide qual è il riso che deve essere coltivato, qual è il pomodoro che può essere venduto. E questa progressiva razzia delle risorse economiche mondiali, oggi come ultimo stadio va a chiappare le città d'arte, ma non soltanto le città d'arte, perché ci sono luoghi come Machu Picchu a rischio, ci sono isole in Thailandia che sono state chiuse al turismo. L'Himalaya, è di questi giorni la notizia di Himalaya, che la Cina ha chiuso l'accesso all'Himalaya perché la gestione dei resti delle varie spedizioni è diventata ingestibile, in quanto sta rovinando la vita del mondo. Quindi questo è un problema trasversale che colpisce tutto il pianeta, laddove appunto il sistema economico del turismo ha identificato le prede e i prodotti facili da vendere, perché poi qui noi in Italia perché viviamo questa storia qui? Perché i percorsi turistici ormai sono brevi e sono concentrati su tre città: Venezia, Firenze e Roma. Perché, come dire, queste sono le tre. Queste sono le. Sì, adesso si sta espandendo. No, ma questo si sta espandendo perché, come dire, queste tre città ormai sono finite, i venezieli non ci stanno più. Siete i panda dell'Alto Adriatico, siete in estinzione. Si può dire questo? No, ancora esistete, non so per quanto, ma come dire, da quello che ne so io, i dati non depongono un buon favore dei veneziani che hanno fatto la loro storia e adesso. Dipende da come leggiamo la città i dati, Non so, come le leggi io, i dati che leggo io promettono un'estinzione rapida. Comunque un'estinzione rapida nel giro di 10 anni, se non succede qualcosa. Ma questo sta avvenendo anche a Firenze, perché sono nuclei più piccoli. Roma il problema ce l'ha, e come, perché l'economia principale della città ormai è soltanto mirata al turista, ma Nord Fuggi, che vede quelle tre cose, si compra quelle quattro porcherie nei negozi e si mangia delle schifezze, perché tanto faccio l'esempio, il livello della ristorazione romana per me si è azzerato, perché tutti hanno capito che i turisti a Roma c'erano una volta nella vita, una volta, non come ci tornano come a Parigi o a Londra, quindi il ciclo è più sano. Quindi visto che il turista ci viene, io ti vedo una volta sola, vieni tu una volta sola a mangiare da me, ti do l'immondizia, ti do l'immondizia, tanto poi tu non torni e me non me ne frega niente perché è fortunato. Quindi questo sistema a scalare verso il basso sta producendo dei danni immensi, che sono appunto le economie su cui si reggono le città. È più facile lavorare con i turisti che non lavorare su altri fronti, perché da una parte fatichi, dall'altra parte tentano a forte nel negozio per comprare quelle quattro schifezze oppure quattro bottiglie che metti in vetrina. Quindi, ritornando al punto, questa è una battaglia molto importante, forse si può anche considerare come l'ultima linea del fronte rispetto a un'economia iperaggressiva che ormai è dominante ovunque. Punto, da Machu Picchu come qui sulle rive dell'Arno. Il punto è lo stesso, perché appunto si va a razzia, si va a consumare quello che c'è, e finché c'è, c'è. E poi domani ci portiamo Catania. È molto semplice. Quella roba che abbiamo consumata, che produciamo, questa andremo avanti all'infinito. Quindi se questa è l'ultima linea del fronte, e questa è la grande battaglia civile da combattere, perché appunto si porta dentro tantissime cose, non soltanto il consumo, la mercificazione dell'arte, no? Nella sua massima espressione, dove tutto diventa e solo cartolina, basta immaginare le immagini che si vedono, che ne so, della Gioconda, perché pure lì c'è un problema, no? Digiti Gioconda e vedrai una foto su qualsiasi motore di ricerca, di una foto dove c'è una Gioconda piccola e davanti tutta una fila di cellulari sulla fotografa, no? Quindi quello non è un modo di rapportarsi a un pezzo d'arte, è un modo di consumarlo. La gente va lì, si fa la cartolina, se la porta a casa, poi l'ho vista, ecco, là c'è il cellulare, poi dopo il cellulare, quello delle foto che fare lì dentro come le hanno, questo è un altro discorso. Per cui se questo è l'ultimo fronte, l'ultima battaglia di civiltà che ci tocca affrontare, probabilmente va affrontata in due maniere. Una appunto quella del creare una rete che si possa contrastare nei confronti delle istituzioni, che appunto ha bisogno di specifiche qualità, appunto economisti, urbanisti, che proprio vadano a tirare fuori i dati reali, i dati surreali, surreali. E poi c'è tutta quell'altra parte che, come dire, forse possiamo fare noi che non abbiamo delle particolari specializzazioni, che non abbiamo neanche dei pennacchi da esibire, perché ho 4 laurea in economia, 10 master, eccetera, eccetera. Quindi siamo delle nullità nei confronti della società, che però ci possiamo attivare con un'antica pratica, come dire, era di resistenza cittadina. Questo sarà, come dire, l'obiettivo che vorrei raggiungere in questo piccolo laboratorio, e quindi mettere a disposizione di chi vorrà partecipare tutta una serie di strumenti che non sono miei, preciso, sono antichi strumenti, quindi parleremo anche di situazionismo, parleremo di culture jamming, parleremo di un sacco di cose, soprattutto di tutto quello che si può fare in un contesto del genere, cioè riprendersi il territorio attraverso l'unica pratica di combattimento che i pochi possono applicare nei confronti dei molti, cioè la guerriglia, armata della quella che io ritengo essere la più grande arma non convenzionale che l'umanità si sia inventata, che è l'arte appoggiata dalla sacra. E quindi vediamo se volete venite, se no state in una casa.